24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. L'Europa è sull'orlo del precipizio, ha detto il premier polacco Donald Tusk nel suo intervento davanti alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, tirando le somme della presidenza di turno polacca dell'Unione europea. Non possiamo dire che l'Europa è più unita o che abbiamo superato la crisi, ha aggiunto. Tusk non ha gradito le decisioni prese venerdì scorso a Bruxelles con la nascita dell'Europa a due velocità. E dalla Gran Bretagna, dopo quello di venerdì, è arrivato un altro no. Madame Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, l'aveva descritto come uno dei tre buoni risultati del vertice notturno di settimana scorsa, ma ora i 200 miliardi di euro che l'FMI dovrebbe ricevere dai paesi dell'Unione fanno discutere. Secondo una nota diffusa al termine dei lavori del Consiglio di settimana scorsa, i tre quarti dei miliardi li dovrebbero mettere i 17 paesi dell'area euro e all'ultimo quarto, pari dunque a 50 miliardi, ci dovrebbero pensare i paesi europei non euro, Svezia, Ungheria ed altri guidati dalla Gran Bretagna. È bastato che circolasse l'ipotesi di un contributo di Londra di questa misura che da Downing Street arrivasse un secco non se ne parla. Le risorse dell'FMI sono per i paesi, non per le valute e non possono essere utilizzate allo scopo di rafforzare l'euro. Peccato che l'FMI intendesse proprio sostenere le economie che, guarda caso, sono denominate da un decennio in euro. Insomma, pagare per l'Europa dopo aver difeso in patria al no solitario l'accordo fiscale suona davvero troppo. Londra dunque si smarca e lo fa nonostante gli appelli lanciati dopo la tempestosa notte di Bruxelles, sia da Sarkozy che dal cancelliere Merkel, che proprio mentre Londra chiudeva la borsa, al Bundestag ricordava che la Gran Bretagna resta un partner importante dell'Unione Europea, anche per il futuro. E a quanto pare Londra ha deciso di sottolinearlo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Si apre domani a Bruxelles il vertice tra Unione Europea e Russia all'ombra della crisi dell'Eurozona e dei recenti scandali delle elezioni parlamentari russe. Le autorità europee vogliono affrontare la questione delle presunte irregolarità, ma l'ambasciatore russo ha già avvertito l'Unione Europea dicendo che non è il momento di fare polemiche. A questo summit, ha spiegato Vladimir Kizov, parleremo del nuovo accordo quadro tra Russia e Unione Europea e della liberalizzazione dei visti. Pessimista sul vertice, l'ex campione mondiale di scacchi e figura leader dell'opposizione, Garry Kasparov. Qualsiasi decisione presa a questo incontro, ha detto, non avrà importanza storica. Oggi l'Europa è in una situazione finanziaria tale che è pronta a fare qualsiasi concessione. Indubbiamente Putin ne approfitterà. Al vertice la Russia potrebbe confermare di voler contribuire al Fondo Europeo Salvastati attraverso il Fondo Monetario Internazionale. E intanto sulle piazze europee ieri non è stata una giornata positiva. I timori sull'Eurozona sono tornati ieri a spaventare i listini che hanno chiuso in calo la terza seduta consecutiva. Nell'occhio del ciclone è finita Parigi che ha perso oltre il 3%, mentre continuavano a rincorrersi i rumor sul downgrade del debito francese. Attualmente una tripla A, il massimo possibile. Male anche Milano, dopo che l'asta dei BTP a 5 anni ha toccato nuovi rendimenti record al 6,47%. Il FTSE MIB ha perso il 2,84%, il FTSE All Share il 2,78%. Le vendite hanno colpito in modo particolare le assicurazioni dopo il downgrade di Fitch. Fonsai ha perso il 6,01% e Generali il 4,91%. Male anche Fiat, meno 5,48%, che si è mossa in linea col settore europeo dell'auto, spaventato dalla maxi perdita annunciata nel secondo semestre da Peugeot. In una giornata di forti vendite si è mossa in controtendenza BPM, più 4,21%, dopo che è terminata l'asta su una parte di inoptato dell'aumento di capitale. La Popolare di Milano, inoltre, attende a breve una svolta con l'individuazione del nuovo amministratore delegato. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. Alta tensione in Senato in Italia durante l'informativa del Presidente del Consiglio Monti sull'esito del vertice europeo di Bruxelles. Forti contestazioni dai banchi della Lega. Il Presidente Schifani ha parlato di sceneggiata indegna e sospeso la seduta. Alla ripresa Monti ha spiegato che uno dei modi per abbassare la pressione fiscale potrebbe essere l'introduzione della Tobin Tax, la tassazione sulle transazioni finanziarie. Colgo l'occasione per dire che in sede europea uno dei modi per arrivare a, non dico basta tasse perché quello sarà impossibile, ma a meno tasse su chi produce e meno tasse sulle famiglie è anche quello di avere una fiscalità estesa anche al mondo della finanza e della grande finanza. Mi richiamo al monito che ho sentito eletto, meno tasse, dicendo che in sede europea si è sottolineato che un modo per avere meno tasse su imprese e famiglie è anche quello di non considerare, al di là di ogni ipotesi, la tassazione sulle grandi operazioni finanziarie. E volevo segnalare che questa è una decisione europea, ma ho notificato in sede europea che l'Italia è disposta a cambiare la propria posizione. E Mario Monti, intervenendo in aula al Senato, ha detto che l'obiettivo è evitare che il puro concerto bilaterale franco-tedesco domini l'Europa. Questo è un messaggio collaborativo, ha aggiunto il Premier, con cui si dice: Merkel e Sarkozy, potete fare errori, è meglio che agiamo con una consultazione preventiva tra tutti. Andiamo a Firenze, dove è lutto cittadino. Il sindaco Renzi ha chiesto di stringersi accanto alla comunità senegalese dopo la strage nel capoluogo toscano. Sul web si discute delle analogie con la strage di Oslo. L'analisi di Aldo Giannulli, giornalista e scrittore. Notavo delle stranissime analogie sia fra il caso di Firenze e quello di Liegi dello stesso giorno di ieri, sia entrambe con il caso Breivik di quest'estate, del 22 luglio scorso. Ora, i personaggi sono tutti personaggi con precedenti che lasciano immaginare uno squilibrio, su questo non c'è dubbio. E quello che dobbiamo chiederci è se qualcuno stia indirizzando questi squilibrati. Qui io credo che bisognerebbe studiare con molta attenzione cos'è stato il convegno di Colonia 2 anni e mezzo fa, e io credo che lì bisognerebbe riprendere molto seriamente in considerazione quel convegno e studiare chi c'era, che discorsi sono fatti. Ed è salito 5 il numero delle vittime della strage di Liegi. Il cadavere di una donna è stato trovato in un hangar di proprietà di Nordin Amrani, l'autore del massacro. Il 33enne, di origini marocchine, cittadino belga, era stato convocato in commissariato e forse temeva di tornare in prigione. Si trovava in libertà vigilata dopo una condanna per spaccio di cannabis e possesso di armi. L'accordo tra Italia e Francia per il finanziamento della prima fase del corridoio ferroviario Torino Lione dovrebbe essere finalizzato martedì a Roma ed essere presentato in Parlamento all'inizio dell'anno prossimo. Lo ha affermato il ministro dei trasporti francese Thierry Mariani durante un intervento all'Assemblea nazionale. Stop immediato dell'Europarlamento alla proroga del controverso accordo sulla pesca tra Unione Europea e Marocco. Una vittoria della giustizia internazionale, ha dichiarato l'eurodeputato Pino Arlacchi. L'accordo, infatti, oltre che essere svantaggioso economicamente per l'Unione Europea, avrebbe dato vantaggio al Marocco nello sfruttamento delle acque territoriali del Sahara occidentale, considerato illegalmente occupato dal 1976. L'Assemblea di Strasburgo ha chiesto quindi alla Commissione europea di negoziare una nuova intesa più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, tenendo in considerazione anche gli interessi della popolazione sahrawi. Per il Time, l'uomo dell'anno 2011 è il manifestante. Secondo il settimanale britannico, è il simbolo più rappresentativo del dissenso che si è diffuso in tutto il Medio Oriente, in Europa e negli Stati Uniti. Il manifestante, l'uomo comune, quello che occupa le piazze e che rappresenta tutta la gente che quasi a livello mondiale teme la crisi e vorrebbe frenare l'inarrestabile. Un indeterminato uomo indignato che manifesta. È questo, per il Time, l'uomo dell'anno 2011. Perché? Perché, scrivono dal Time, un anno dopo che un venditore di frutta tunisino si è dato fuoco, il dissenso si è diffuso in tutto il Medio Oriente, in Europa, negli Stati Uniti, rimodellando la politica mondiale e ridefinendo il potere dei popoli. Quest'anno nella copertina c'è dunque una persona con il volto e la testa coperti da una sciarpa. Si vedono solo gli occhi. È la partecipazione civile ad essere stata premiata, il coraggio d'essere forse qualche volta ingenui, arrabbiati, quel volere ad ogni costo farsi sentire, anche contro i poteri forti, e non lasciare che tutto proceda come deve procedere. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.